non ha, mai non ha, mai non ha, non ha, non ha, non ha. Come viandante giunto a sera, pianto ancora la mia tenda sui tuoi passi in riva al mare, per ascoltare te che ti fai pane per me, tu mi dici che donare ciò che vale, che l'amore rimane ed è quel fuoco che scalda il cuore all'imbrunire. Poi prepari per me pane e pesce da mangiare, un po' di vino da bere e sentire che il tuo amore rimane ed è quel fuoco che scalda il cuore all'imbrunire, fino al nuovo sole. Poi su un altro sentiero, un deserto amaro, ed incontrarti nei volti stanchi, redenti da te, solo da te. Come viandante giunto a sera, vieni ancora alla mia tenda, come l'onda in riva al mare. Nai non na, non nai non na, non na. Nai na, nai non na, non nai non na, non na. Sentinella, dimmi quanto manca al mattino, dimmi quanto manca. Sentinella, dimmi quanto manca al mattino, dimmi quanto manca. Come viandante giunto a sera, pianto ancora la mia tenda sui tuoi passi in riva al mare. Nai non na, non nai non na, non na. Nai na, nai non na, non nai non na, non na. Stella Maris, o Stella Maris, o Stella Maris, nai non nai. Stella Maris. posto in la mare. Night and night.